tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. I due pareggi di ieri nei recuperi di campionato non hanno cambiato in maniera significativa la classifica. La conseguenza principale è che il pareggio tra Bologna e Atalanta ha reso ancora più difficile la situazione di Lazio e Udinese, raggiunta a quota 20 dal Bologna e ormai con 3 soli punti di margine sulla terzultima, e cioè sulla retrocessione, anche se l'Udinese a sua volta ha una partita poi ancora da recuperare con il Cagliari. I commenti a queste partite da parte di alcuni protagonisti, cominciando dall'allenatore del Genoa Gasperini. Mi sembra che anche l'arbitro abbia valutato il fallo di mano, però in maniera involontaria, e quindi almeno dalla spiegazione che ha dato noi è così, quindi anche se poi il giocatore ha fatto gol. È successo di prendere delle scopole come con le due milanesi e con la Roma, hanno evidenziato un po' la classifica, ma noi è successo tante partite, anche col Catania hanno mai tirato in porto, quindi credo che la retroguardia stia facendo bene, l'attacco anche, e poi dopo ci sono gli episodi. Questo è un periodo che basta risalire un po' le partite indietro, a parte gli infortuni, e si vedrà che il Genoa ha rallentato un po', però insomma le prestazioni qualche volta brutte come domenica, ma molto spesso buone. Il miglior uomo del Bari invece, che era insomma, che anche perché tradito dal fondo del campo di Marassi, credo ormai il secondo peggiore in Italia dopo quello irraggiungibile di Verona, il Bari penalizzato anche, ripeto, probabilmente da questa circostanza, si è affidato soprattutto alle parate, oltre che alle parate di Gillet, bravissimo come sempre anche nello smistamento con i piedi, un vero libero aggiunto questo portiere del Bari, sentiamolo. Il portiere col sistema del mister fa parte della squadra, non è un ruolo a sé, vengo coinvolto nel sistema di gioco e niente, bisogna avere personalità, fare le cose per bene, perché comunque riusciamo a fare delle buone cose. Per adesso abbiamo una buona classifica e speriamo di continuare così. L'avevamo messa sopra la barriera, è stato un po' di sfortuna perché capita, cioè, la barriera è saltata, ha fatto bene, e purtroppo qualcuno l'ha toccata, è andata dall'altra parte, però fa parte del calcio. Andando in vantaggio è normale che si spera qualcosa di importante, però giocavamo a Genova, hanno spinto tanto, hanno pressato, hanno provato in tutti i modi, alla fine penso che il punto vada bene. Sì, due gol molto fortunosi a Genova entrambi, sia quello del Bari iniziale sia quello poi del pareggio ottenuto da Genova nel secondo tempo, con una punizione palesemente deviata che insomma un tempo sarebbe stata una delle più classiche delle autoreti, invece adesso viene attribuita comunque a chi calcia. Più divertente tutto sommato, anche con giocate di miglior qualità, la partita di Bologna che l'Atalanta ha recuperato dopo il doppio vantaggio iniziale di Di Vaio. Proprio Di Vaio e Cevanton al microfono. Il primo tempo lo dovevamo portare sul 2-0 in maniera che era molto più difficile per loro comunque recuperare. Il 2-1 loro sicuramente ci ha messo a pressione e loro hanno giocato un secondo tempo di livello dove noi non siamo riusciti più ad arginarli, a fermarli, non siamo più che altro più riusciti a partire in contropiede. Penso che l'attaccante deve essere così, deve essere cattivo con il gol, deve vivere per il gol. C'è già il bollettino del giudice sportivo per i recuperi di ieri, un turno di squalifica a Bocchetti del Genoa, alcune diffide e un'ulteriore inibizione al presidente del Genoa Preziosi per essere entrato in spogliatoio al termine della partita nonostante fosse inibito, e quindi c'è entrato lo stesso, altri 10 giorni di inibizione al presidente del Genoa. Secondo un tabloid russo che si chiama Dvoidien, ammesso che questa sia la pronuncia corretta, c'è una chiave di lettura abbastanza diversa sulla conferma di Ferrara sulla panchina della Juventus, e cioè non tanto una scelta della società della Juventus quanto il fatto che Gusidic avrebbe respinto questa presunta offerta della Juventus di sedere sulla sua panchina, citando una fonte molto vicina a Hiddink. La spiegazione data da questo tabloid è che l'offerta contrattuale si sarebbe ridotta durante le trattative sino a 3,5 milioni di euro e sarebbe stata rifiutata dall'allenatore olandese della nazionale russa. Ci sono gli arbitri per le partite di domenica e sono Gava per Bologna-Bari, poi Catania-Parma-Gervasoni, Genoa-Atalanta-Giannocchero, Inter-Milan-Rocchi di Firenze, Juventus-Roma-Tagliaventoli-Terni, Lazio-Chievo-Brighi, Livorno-Napoli-Mazzoleni, Palermo-Fiorentina-D'Amato, Siena-Cagliari-Tommasi e Udinese-Sampdoria-Carmine Russo di Nola. Avete sentito anche nel giornale radio le ultime dai quartier generali di Inter e Milan, con guai in particolare per l'Inter, perché il Milan si era già messo il cuore in pace per Pato da tempo. Sarri non poteva disporre di Zambrotta, Nesta è ancora in dubbio, non si è allenato nemmeno oggi, la sua presenza diventa forse un pochino meno probabile, ma in compenso sull'altro fronte si riducono le chance, leggo da questa agenzia, sia per Stankovic che per Motta, e mentre Muntari è decisamente fuori gioco. Quindi l'Inter è praticamente senza, non tutto, ma quasi tutto il centrocampo. Fermo restando che comunica l'Inter, società organizzatrice, per la società ospitante per domenica sera, che a poco più di 3 giorni dall'inizio della vendita libera sono già stati esauriti i biglietti, e quindi c'è sin da ora il tutto esaurito domenica sera a San Siro. Chiave di lettura interessante quella proposta da Sacchi in un'intervista alla Stampa di stamane, secondo cui la marcia in più che Inter e Milan hanno trovato quest'anno sarebbe dato a parere di Sacchi dall'addio di Ibrahimovic e di Kakà. È scattata, spiega Sacchi, la voglia di dimostrare al Milan che del brasiliano si poteva fare a meno, come nell'Inter orfana di Ibrahimovic. Il calcio, dice Arrigo, non è un album di figurine, le motivazioni supportate dalle idee suppliscono a ogni genere di assenza. E poi, tra gli altri spunti interessanti di questa intervista, gli viene domandato: è d'accordo con la gestione di Balotelli? Sì, ha risposto Sacchi, un giorno Balotelli dovrà ringraziare Mourinho. E alla successiva domanda: mai avuto in squadra un Balotelli? Mai, cercavo sempre di evitarne l'arrivo, ha risposto Arrigo Sacchi. Si è giocato ieri sera anche il quarto di finale tra Fiorentina e Lazio di Coppa Italia. La Fiorentina si è qualificata per la semifinale. Sentiamo Prandelli. Da quando abbiamo iniziato questa manifestazione che volevamo cercare di andare avanti, nonostante l'emergenza, nonostante tante partite, quindi sono soddisfatto perché siamo in semifinale e sono soddisfatto perché abbiamo messo in campo uno spirito giusto, uno spirito da Fiorentina, e quindi quando giochiamo così possiamo perdere partite ma senza recriminazioni. Adrian è tornato dall'infortunio molto motivato, ha lavorato molto bene. Quando un giocatore come lui sta bene fisicamente, poi la differenza tecnica si vede. Penso che possa fare un finale di stagione straordinaria. Un messaggio ad un ascoltatore: non pensa che la chiusura di una curva rappresenti comunque un fallimento dei biglietti nominativi e in generale dei decreti antiviolenza, visto che si colpisce nel mucchio e non al personam? Domanda Stefano da Udine. Sì, penso di sì, entro certi limiti, poi con qualche distinguo, magari qualche precisazione, ma in linea di massima direi che è così. Sì, sono un tifoso romanista, ma se segno sabato sera esulto. Lo ha detto Antonio Candreva, il neo acquisto della Juventus, dai microfoni di Juve Channel, stamane, al suo arrivo praticamente nel club juventino. E tra l'altro l'agenzia dice che uno dei compagni cui ha stretto la mano per primo oggi presentandosi è stato proprio Sissoko, che era appena arrivato a Torino dall'Angola, Coppa d'Africa, da cui insieme al Mali è stato eliminato. Bentornato Marco Bellinazzo. Buon pomeriggio. A cui leggo, per partire, perché insomma gli argomenti sono tanti, due in particolare, e sono quelli che abbiamo accennato già nei giorni scorsi, cioè queste strane obbligazioni al Manchester United e la bocciatura per Cellino nella sua scalata al West Ham. Allora, ti leggo, e leggo agli ascoltatori, una mail ricevuta in questi giorni sull'argomento, firmata da Agostino Ghiglione da Roma, che dice: prestito obbligazionario del Manchester, proposto a rendimento del 7% senza precisare data di scadenza. Le attese sui tassi di rendimento sono in crescita rispetto ai valori odierni e si attestano al 3% a giugno 2012 per la sterlina. Vedi, sole 24 ore 14 gennaio. Quindi Il valore dell'emissione dipende dalla sua durata. È noto che prima della crisi finanziaria i tassi di interesse della sterlina erano notevolmente superiori all'euro, vedi i rendimenti di 16 titoli obbligazionari quotati al MOT con tassi nominali compresi tra 5,25 e 10,50, pagina 53, sole 24 ore della stessa data. E capisci che ti ho convocato al mio capezzale perché non sono in grado di rispondere a questo ascoltatore e di valutare tutto questo nell'ambito di questo prestito proposto da Malcolm Glazer, proprietario in difficoltà del Manchester United, proposto addirittura ai suoi dipendenti, dunque anche ai giocatori. A parte i complimenti al lettore del Sole, al nostro ascoltatore, così ce li teniamo buoni, e di questi tempi è sempre opportuno. Ha fatto scalpore effettivamente questa notizia data dal Sun di un prestito obbligazionario di oltre 500 milioni di euro che il Manchester, la proprietà del Manchester, ha intenzione di lanciare per far fronte a un debito che supera i 700 milioni e viaggia abbondantemente verso gli 800, rischiando evidentemente di portare la società ai limiti della bancarotta. Fare alcune valutazioni. Il rendimento, come dice il nostro ascoltatore, di un'obbligazione va commisurata alla durata e al rischio di chi emette queste obbligazioni. E qui, secondo me, nasce l'anomalia di un prestito obbligazionario che normalmente, per esempio, nella legislazione italiana è finalizzata a un'iniziativa di sviluppo, no? Di investimento, mentre qui serve a ripianare dei debiti, il certo. Che lo renderebbe, diciamo, poco praticabile da queste parti. Ammesso e non concesso che poi il Manchester procederà su questo fronte, è chiaro che per gli stessi giocatori sottoscrivere i bond da 50.000 sterline l'uno, anche se per la propria società, ma una società grandemente indebitata e con una proprietà che dimostra di non volersi impegnare più di tanto, sarebbe un rischio che anche il 7%, a mio avviso, non garantisce, non vale, al di là di quello che può essere la durata, insomma. Più o meno questo credo sia il modo di inquadrare questa vicenda. Vedremo tra l'altro se sarà portata avanti dal Manchester, che ha ben altri problemi, che dovrebbe appunto, a mio avviso, definire la propria situazione debitoria che si è andata diciamo ingrandendo negli ultimi anni, con una decisione chiara della proprietà americana, e cioè se appunto far fronte a questi debiti, se ridimensionarsi oppure se insomma vendere società negli Stati Uniti. Tra l'altro i Glazer sono proprietari anche di squadre di baseball e di hockey negli Stati Uniti, e ripianare questo debito e attenersi, diciamo, alle regole del fair play finanziario che tra due anni dovrebbero entrare in vigore. Certo, che saranno il vero snodo. Un altro ascoltatore, Michele Cortellini, da Monza, ricorda che non è inedito il fatto che a Manchester stessero pensando a un ridimensionamento, tant'è vero, appunto, scrive che se il Manchester ha ceduto uno come Cristiano Ronaldo per 90 milioni di euro e con tutto rispetto ha acquistato Valencia, è evidente che insomma i problemi finanziari c'erano, come d'altra parte si sapeva, come si era tempestivamente denunciato, e che già avevano provato, forse con dei palliativi e con dei ripari. Adesso ho l'impressione che non basta più l'omeopatia, no? Ora bisogna ricorrere agli antibiotici, e questo vale in generale per tutto il calcio inglese, ma non solo per il calcio inglese, ne abbiamo parlato qui spesso. Non solo per il calcio inglese, non ti interrompo, ma insomma intervengo perché questo argomento sta un po' tracimando dalle pagine, per esempio, del Sole 24 Ore, dalle pagine economiche. Arriva direttamente, per esempio, in settimana la Gazzetta dello Sport, che pubblica una ricca tabella da cui si desume che i milioni di debito delle quattro inglesi in Champions aggiornati sono arrivati a 1.901 milioni di euro, ma i milioni di debito delle quattro spagnole in Champions sono a 1.793, quindi siamo praticamente pari su somme spaventose. Somme spaventose, anche se poi va fatto ovviamente un distinguo in rapporto a quello che è il fatturato delle società. Una cosa sono i 600 milioni, se quasi 700 milioni di debito del Real Madrid. Tra l'altro Florentino Perez ha annunciato per l'anno prossimo una nuova campagna acquisti milionaria, se non sfavillante, come quella di quest'estate. Peraltro, bisogna vedere poi quali giocatori potrà comprare, sono rimasti pochi campioni che non giocano nel Real Madrid. In ogni caso il Real Madrid ha un fatturato che supera, dovrebbe superare quest'anno i 400 milioni di euro, una ricca proprietà immobiliare a partire dallo stadio. Chiaramente altre cose sono per esempio i 550 milioni di debiti che ha il Valencia, che non ha lo stesso fatturato. Lo stesso Barcellona, certo, ha debiti per quasi 500 milioni di debito, ma anche lì viaggiamo su un fatturato tra merchandising, diritti TV che va oltre 400 milioni, per cui diciamo Real Madrid e Barcellona sono quantomeno sulla strada di attenersi alle regole, diciamo, della parità volute da Platini. Le altre società no, sono quelle che rischiano molto. Il Valencia ha rischiato il fallimento già quest'anno. Molto meno. Torno alla mail di Agostino Ghiglione, di questo nostro lettore, che affronta il secondo un altro capitolo, West Ham Cellino. Non capisco come possa aver avuto risonanza per giorni l'offerta di Cellino per il West Ham. La capacità finanziaria del gruppo Cellino avrebbe impedito qualsiasi ipotesi di scalata, anche quella a debito. Questa è l'opinione di un ascoltatore, ripeto, però... Lui insiste dicendo che bastava chiedere a qualunque banca quale credito potesse vantare la famiglia Cellino, che fonda la sua attività sul commercio regionale in prevalenza di cereali e prodotti di trasformazione gli stessi, che danno redditività molto basse. Quindi ne fa non un discorso di valutazione assoluta, tipo quello del San, per esempio, che era stato particolarmente sgradevole, ma ne fa un'analisi economica. La prima attività che il commissario Bondi chiuse nel crack del gruppo Ferruzzi, dico Ferruzzi, scrive questo ascoltatore, fu proprio il settore cerealicolo per la sua bassa redditività, 2-3%, rispetto alle grandi necessità finanziarie per il trading. Conclude Agostino, dice, gradirei che queste considerazioni venissero sottoposte a Marco Bellinazzo, quindi dato che ormai ti viene invocato, presentati e rispondi. Grazie per la stima chiaramente mal riposta. In ogni caso c'è da dire che innanzitutto l'acquisto a debito non è illegale ed è stato praticato proprio in Inghilterra, proprio per esempio dai Glazer per comprare gli Stati Uniti, dagli Stati Uniti, diciamo, la squadra inglese, e non è soltanto, diciamo, questo il caso, quindi non è vietato dalle leggi del mercato. Altro discorso è capire se dal punto di vista economico e finanziario di lunga durata diciamo è un discorso che può essere, che può avere un futuro. Chiaramente da quello che stiamo vedendo ci sono molti dubbi su questo. Detto ciò, diciamo, l'idea di Cellino non era strampalata, anche perché l'West Ham apparteneva e appartiene ancora per il 50% a una banca islandese che è stata travolta dal crack finanziario, dalla crisi globale, e quindi si poteva acquistare una squadra che è sull'orlo, diciamo, della retrocessione, scommettendo sulla salvezza e quindi su una ricca torta di diritti TV che ci sono soprattutto appunto in Inghilterra, visto che ha un mercato molto ampio. Il Cagliari, per esempio, dal punto di vista dell'amministrazione finanziaria è una delle società messe meglio in Italia, non produce utili elevatissimi ma perlomeno non produce passivi. Lo scorso anno ci sono stati circa 3 milioni di attivo, che per i discorsi che abbiamo appena fatti sono una ricchezza inestimabile, un'eccezione assoluta, certo. Per cui, diciamo, l'iniziativa imprenditoriale secondo me andava sottolineata, ecco perché se ne è parlata sui giornali, poteva avere un fondamento. Si è preferito da parte della banca islandese vendere agli ex proprietari del Birmingham il 50% delle azioni, con una diciamo possibilità nei prossimi 4 anni di cedere l'altro 50%. Peraltro il West Ham ha 100 milioni e oltre di debiti, Cellino si era impegnato formalmente a pagarli, se qualche banca, insomma, credeva in questo progetto imprenditoriale gliel'avrebbe prestati, avrebbe fatto, insomma, una operazione logica. Sulla redditività poi un altro discorso. Grosso modo direi che il capitolo economico-finanziario potremmo circoscriverlo in questo ambito. Sperando di aver soddisfatto le richieste. Il severo Agostino Ghiglione innanzitutto, ma poi insomma, gli altri ascoltatori che sono interessati a questo argomento. Allora, farei un paio di mail di passaggio, perché insomma, il giovedì mi piace un po' tirare le fila della settimana e dare spazio a qualche osservazione interessante, e poi nella seconda parte del programma passiamo invece all'altra parte che ti compete, e che è quella degli aggiustamenti, no, di queste norme antiviolenza, che sono d'accordo con quel messaggio precedente, evidentemente. Cominciamo a imboccare, credo io almeno, la strada della sconfessione, sia pure per il momento con molta moderazione. Enrico Gianni scrive: ho appena finito di ascoltare la sua trasmissione, parlava di ieri, A proposito di stadi italiani ed esteri, voglio parlare dei terreni di gioco. Non so se ha avuto modo di seguire qualche partita di Coppa d'Africa, ma avrà notato che persino in Angola, con tutto rispetto, riescono ad avere terreni di gioco migliori dei nostri. Dall'Angola alla Siberia, caro Enrico, perché io cito sempre quell'esempio che ci ha fatto il professor Pincolini alla vigilia di Natale. Hanno giocato una partita di Siberia loro con la squadra in cui attualmente lui esercita la sua professione di preparatore atletico, con Lokomotiv Mosca, hanno giocato in Siberia a metà novembre, c'erano 13 gradi sotto zero, hanno giocato su un campo perfetto, erbosamente perfetto, quindi dalla Siberia all'Angola, purtroppo, meglio che da noi. Simone Zara fa notare, a proposito di sempre di ieri, dice: è vero che a Cagliari la media non supera le 15.000 presenze allo stadio, ma in proporzione fanno le 60.000 di Milano, di Roma o di Napoli, e anche questo è una riflessione che numericamente e statisticamente ci può stare. Secondo capitolo, dal finanziario passiamo all'ordine pubblico negli stadi. L'ho sentita, scrive Marco Pina, anche in questo caso partiamo da una mail particolarmente interessante di un ascoltatore. L'ho sentita in questi giorni auspicare il ritorno della polizia negli stadi. Io, da tifoso da stadio, spero proprio che quei tempi non ritornino. Non sono un ultrà né un facinoroso, sono un semplice appassionato tifoso del mio Cagliari. Ma devo comunque far notare che la presenza della polizia negli stadi crea tensione. È un fatto, piaccia o no. Non servono leggi speciali, servono leggi sportive severe e alcune altre considerazioni di questo genere. Grazie per questa mail, caro Marco. Io mi ero intanto non auspico il ritorno della polizia negli stadi in senso cileno, per capirci, no? Ammesso che mai in Italia sia accaduto, e in uno stadio, magari in qualche altra casa erma, insomma, in qualche altro posto può essere successo, anzi purtroppo è successo, ma in uno stadio che ricordi io no. Non lo spiccavo in quel senso, dicevo, lo spiccavo come correttivo, cioè mi ero agganciato alla proposta di Blanc, presidente della Juventus. La Juventus è evidentemente sazia, no, di questa situazione, perché già sta affrontando una crisi tecnica che se ha precedenti ne ha pochi, e forse non di questo segno così grave. Per di più, soprattutto, è alle prese con una difficilissima gestione dei rapporti con la parte degenerata della tifoseria. Negli ultimi giorni l'Osservatorio, il Viminale si sono dovuti occupare principalmente di Juventus, di tutto quello che attiene alla Juventus, vuol dire che la situazione è grave. Se in quelle condizioni un presidente di società responsabilmente si domanda a voce alta: ma non sarà il caso di fare un passo indietro e di tornare a chiedere l'impiego della polizia negli stadi? Mi pare sia un problema da affrontare abbastanza seriamente. Lo giro ovviamente anche questo a Marco Bellinazzo. Ieri l'osservatorio del Viminale ha approvato un pacchetto di misure, di nuove misure per far fronte a questa escalation di violenza, non solo verbale, che sta tornando ad infestare gli stadi italiani. E una di queste misure, per esempio, è proprio un maggior impiego della polizia accanto agli steward nelle operazioni di filtraggio e di controllo, quindi che non è ancora dentro lo stadio, che non è ancora dentro, ma è un passo in più, è un passo indietro rispetto più, a quello che si è detto finora, alla filosofia, certo, che si è voluta sperimentare in questi anni, cioè la polizia fuori dagli stati e dentro i controlli di sicurezza affidati agli steward e alle società, ed è un passo in più della polizia che si avvicina di nuovo agli spalti, e molti, per esempio, guardando la scorsa settimana le scene di quegli incendi a Torino sugli, certo, spalti, si saranno chiesti se appunto l'intervento della polizia non sarebbe stato utile e necessario, visto che gli steward lì se ne sono visti pochi. E direi meno male, perché in altri stati, quando intervengono, quando provano questi ragazzi fondamentalmente, certo, che per poche decine di euro svolgono questo servizio, a intervenire, spesso finiscono male. È accaduto a Napoli settimana. Ti interrompo solo in stato per far notare che purtroppo sono poche decine di euro, o magari meno ancora, anche per i poliziotti, se contiamo la paga all'ora che devono andare lì a spegnere o a intervenire o a rischiare quello che rischiano con questa gentaglia. Però però questo è il loro mestiere, no? A differenza di uno steward che si presta a improvvisarsi come tale la domenica. E soprattutto non ha le armi in questo caso, certo, per tutelare l'ordine pubblico, non gli si può chiedere questo, non siamo a teatro, non parliamo di hostess in una fiera che devono semplicemente accompagnare gli spettatori ai posti, ma purtroppo di ben altro. Sono state tante le decisioni del Viminale, anche appunto, ripeto, legate a fatti di cronaca. La più semplice, se vogliamo, è quella di prevedere nuove norme per bloccare l'uso di questi laser che ormai, diciamo, si vedono proiettare sui volti dei giocatori e disturbandoli, insomma, nelle fasi di gioco anche più importanti. Effettivamente non c'erano regole che vietassero l'ingresso dei laser finora negli stadi, d'ora in poi ci saranno, con multe fino a 500 euro, addirittura la possibilità di applicare dei DASPO. Ieri sera, leggo da un'agenzia, ne sono stati sequestrati due portachiavi dotati di un raggio laser, sequestrati ieri sera prima di Fiorentina-Lazio, nell'operazione del personale di polizia di prefiltraggio fuori dalla curva Fiesole. Quindi, insomma, evidentemente, insomma, usciti dalla porta, no? Uscita dalla porta, la polizia sta rientrando dalla finestra. Ti leggo ancora un breve messaggio che lo trovo molto significativo, che arriva da Biella, dunque dalla mia città, è un minimo di precedenza ce l'ha. Luciano scrive: scherzo, quando andavo allo stadio, vedere la polizia all'interno mi faceva stare tranquillo e mi dava sicurezza. Ora, in linea di massima, io sono d'accordo con Luciano, anzi anche togo in linea di massima. Perché? Perché in genere la presenza della polizia alle persone per bene non dovrebbe dare noia, no? A me non l'ha mai data. Alle persone per male magari può fare un altro effetto, questo in linea di massima. Poi ci sono presenze più o meno immanenti, più o meno invadenti, più o meno, questo è un altro discorso. Parliamo in generale. In generale credo che sia, come dire, giusto permettere alle forze dell'ordine di essere più vicine, più pronte a intervenire qualora ce ne sia la necessità, augurandosi che non ci sia mai questa necessità, o che non ci sia più. Ma volevo, Gigi, parlare di altri punti del pacchetto di misure che ha approvato il Viminale, che sembrano in qualche modo... Riguardano la Juventus in particolare. Riguardano la Juventus, ma partendo dal caso Juve, da cori razzisti, certo, contro Balotelli, certo, stanno, come dire, puntando a individuare nuovi e più stringenti canali, diciamo, di filtraggio di questi, dei tifosi, diciamo, sì, più scalmanati. E soprattutto, tra l'altro, si dovrà prevedere ora un piano di evacuazione degli stadi nel caso in cui gli arbitri o il rappresentante della questura disponga quella famosa sospensione, no, della gara per cori razzisti. Evidentemente ci sono dei piani di evacuazione dello stadio, ma per questi casi in cui evidentemente è urgente farlo, perché la partita è urgente, può essere, e in un certo senso traumatico, anzi senza, in un certo è senso certo, è chiaro che le società sono invitate ora a prevedere, insieme ovviamente alle forze dell'ordine, dei veri e propri piani per evacuare lo stadio, dei piani di emergenza, ed è una presa di coscienza importante, e forse questo può preludere anche alla opportunità evidentemente segnalata dal Viminale di attuare una vera sospensione della gara prima o poi, per dare un segnale forte. Un altro punto interessante, se mi permette, è questo che prevede un'azione, diciamo, un raccordo più stretto tra gli organi della giustizia sportiva e responsabili dei servizi di sicurezza di ordine pubblico, per verificare all'interno degli stadi e in generale nel rapporto tra società e tifoseria se le società stanno facendo qualcosa, se lo stanno facendo in maniera efficace per diciamo, staccare il cordone ombelicale con le frange ultra. Certo. A fine di applicare quelle esimenti che giuridicamente sono concesse alle società quando per esempio accadono fatti come quelli che sono accaduti in queste settimane, dei corri razzisti che hanno portato, certo, per esempio tantissime migliaia di euro di multa alla Juve. Il momento si è arrivata a 166.000 euro di sole multe per corri razzisti. Adesso ha il danno della curva chiusa e del divieto per la Roma di sabato, il divieto di trasferta per giovedì prossimo a San Siro in Coppa Italia contro l'Inter. Qualcuno ha già fatto notare che il danno della curva chiusa in casa è relativo, perché sono tutti abbonati e quindi il danno è loro. Mi spiace per quei pochi, evidentemente. E non pochissimi, tra l'altro, che a queste cose non partecipano e le subiscono, però è anche vero che poi, cioè, già si chiude il settore dello stadio, non è che possiamo, non è che si può chiedere, no, di andare a chiudere il settore di un settore, si chiude la curva evidentemente. Tra l'altro, appunto, si vuole spezzare questa forza ricattatoria che hanno queste frange della tifoseria, e per esempio in futuro si potrà prevedere il coinvolgimento diretto delle società nell'organizzare le trasferte, ovviamente quando saranno autorizzate e nel caso di una tifoseria sana. Farei un attimo un intervallo per dare spazio, perché vedo che il display si sta arricchendo di nomi e di città. Francesco dalla provincia di Chieti, buongiorno. Buongiorno signor Garazzini, la ringrazio per l'ospitalità. Dica. Dunque, io volevo parlare le volevo dire un qualcosa che sicuramente non le piacerà, perché io sono juventino e mi trovo completamente in contrasto con il signor Blanc, per un motivo ben preciso, perché secondo il mio parere la società Juventus sa chi sono questi tifosi. Perché sono loro abbonati, perché oltre alla Juventus anche altre società danno i biglietti gratis a questi tifosi, e quindi in primo luogo, prima di chiedere l'intervento della polizia, dovrebbero ripulire lo stadio dove loro giocano e ripulire la loro società da questi tifosi che creano problemi e che sono dei veri delinquenti. Bisogna vedere se sono in grado di farlo, bisogna vedere se queste connivenze esistono ancora, perché certamente risalgono a una gestione precedente. Bisogna vedere se questi cordoni umbilicali erano stati recisi oppure se erano stati almeno messi in discussione. Che ne sai, Marco, tu per esempio? Che il segnale dato in maniera burocratica dal Viminale con questa circolare, e cioè attenzione, andiamo a guardare chi sta veramente staccando, ripeto, il cordone ombelicale con questi delinquenti, e solo a quelle società riconosceremo le attenuanti del caso, è un segnale importante di un riconoscimento del fenomeno, che forse tutto quello che doveva essere fatto in questi anni non è stato fatto. Certo. Non so se nel caso della Juve questo è vero o meno, ma sicuramente in altri casi. Quindi questo dà ragione alla tesi in generale di Francesco, no? Di questo nostro interlocutore. Non è detto che glielo dia nel particolare in questo momento, cioè nella fase dell'attualità. In ogni caso, quella è la strada da seguire. L'invocazione di Blanc credo che vada al di là del fatto di chiedere appunto una presenza maggiore la domenica, certo, o il sabato allo stadio. Credo che stia chiedendo una collaborazione maggiore, certo, con le forze dell'ordine. E il Viminale in questi casi, o direttamente o attraverso il suo osservatorio, ti risponde: se non capisco male, aiutati che io ti aiuto. No, stavolta non è il cielo, sono io che ti aiuto. Mi sembra un'ottima sintesi, sì, della questione. È una sintesi che ho sentito una trentina di volte in una trentina di anni, intendiamoci, però noi siamo costretti, no, rassegnati a far finta ogni volta che sia una cosa nuova e che sia una cosa che poi stavolta, a differenza delle altre 29, verrà poi davvero attuata. Speriamo che il processo breve valga almeno per gli ultras, scrive Diego, mi sembra un buon messaggio, se non altro di rara tempestività. Gianluca, dicevo, ha chiamato dalla provincia di Modena, buongiorno. No, complimenti, dei giornalisti come lei ce ne vorrebbero, sì, a valanga, a tavola, dica. Io volevo, ieri non sono riuscito a intervenire, ma volevo parlare degli stadi. Io sinceramente sono un tifoso milanista, vado un po' di volte allo stadio con i miei figli, uno di 7 e uno di 9 anni, però sinceramente insomma, che uno ti fumi la canna di fianco al bimbo senza rispetto, senza niente, cioè, questo mi sembra abbastanza, e che nessuno intervenga su questa cosa, perché anche gli steward cosa ci stanno a fare? Capisco. Non siamo in sacrestia però in uno stadio, Gianluca, io capisco cosa intende, le do ragione, però ricorderei sempre di non passare poi da un accesso all'altro, cioè lo stadio non è un teatro. Per il momento c'è ancora il permesso di fumo allo stadio, sto parlando di fumo magari diverso da quello da cui allude lei, sia ben chiaro. Non passerei, come dire, da un accesso all'altro. Poi un giorno magari gli stadi da noi saranno davvero come la Scala, cioè, non ci saranno nemmeno più gli steward, ci saranno queste maschere deliziose vestite stupendamente con i costumi ancora del 700 originali. Però insomma, nel frattempo ci accontenteremmo di meno, insomma, e se il bimbo ogni tanto respira passivamente una del fumo non correttissimo magari che arriva, insomma, è una cosa che a un concerto rock o a una partita secondo me ci può ancora stare. Io non, non, non balzerei ancora sulla sedia per questo, fermo restando che se la situazione fosse ottimale non sarebbe così, sicché capisco quello che intende, lo capisco bene. Data? Sì, quindi 21 gennaio, Nicola Filippone. Sembra ieri. 21 gennaio 1968. In Mantova-Juventus 0-0, il tecnico juventino Heriberto Herrera fa esordire in Serie A, a nemmeno 19 anni, Franco Causio. Per la promettente ala destra, la presenza contro il Mantova sarà l'unica di stagione. La dirigenza lo manderà in prestito alla Regina e poi al Palermo. Rientrerà in pianta stabile a Torino nell'estate del 1970, giocando in bianconero per 11 stagioni di fila, nelle quali riuscirà a vincere da protagonista 6 scudetti, una Coppa UEFA e una Coppa Italia. Il barone Franco Causio. Stavo leggendo una mail che arriva da Amy di Bergamo, che scrive: salve, quante belle parole quelle del Viminale. Tanto poi c'è un deputato, e mi fa nome e cognome, e partito d'appartenenza, che si mette a correggere i comunicati stampa della curva. E mi scrive da Bergamo, quindi non è forse difficilissimo localizzare, non dico il destinatario, insomma, il nome citato, quanto se non altro l'area di appartenenza politica. Roberto da Bologna, buongiorno. Salve, volevo rientrare nel discorso della mezz'ora precedente. Se io fossi un giocatore del Manchester, li sottoscriverei subito i 50.000 sterline di bond. È una società tranquilla, quindi con quello che prendono di stipendio o di ingaggio penso che sia una bazzecola anche per un pubblico impiegato, quindi secondo me non, tutta la polemica non esiste, ecco. Ma intanto non era una polemica, era una curiosità, perché non ha grandi precedenti. Io non so se Marco sia d'accordo. Ma ci può anche stare, come dire, se si guarda quello che il Manchester rappresenta nel mondo di investire nella società. Il punto è che questa richiesta di prestito un po' anomala avviene nel momento in cui la proprietà americana sembra non assumersi tutte le responsabilità e voler scaricare sui calciatori. Semmai si può ragionare su questa nuova frontiera che viene aperta con questa ipotesi. Magari, non so, tra qualche anno ai giocatori verranno dati non stipendi ma delle stock option, oppure una percentuale di partecipazione agli incassi della partita. Chissà, potrebbe essere effettivamente un'evoluzione anche per ridurre il carico dei debiti della società, che i giocatori non siano più considerati dei dipendenti ma dei veri e propri, appunto, professionisti autonomi, che quindi scommettono anche sul rendimento della società. Bisognerebbe vedere l'Associazione Italiana Calciatori cosa ne pensa di queste prospettive. Questa potrebbe essere una domanda da girare a loro. Ciro da Napoli, buongiorno. Salve, buongiorno e grazie per avermi richiamato. Allora, io sono tifoso del Napoli e... Ce n'è un altro qua in studio. Tifoso del Napoli, vabbè, sì. Tifoso del Napoli sono tanti, per grazia di Dio. Niente, io vado allo Stadio San Paolo dai tempi di Rudy Cross, ne ho perse veramente poche di partite e volevo dare la mia testimonianza in merito a un'affermazione che magari può essere anche giusta per quando si sta fuori lo stadio, cioè ho sentito dire: io quando vedo la polizia mi sento tranquillo. Una persona per bene, è vero, quando vede la polizia si sente tranquillo. Diciamo che un inglese magari ha una reazione un po' diversa dall'italiano quando in macchina vede la polizia. Noi in macchina, quando vediamo un posto di blocco, dice: mamma mia, speriamo che mi lasciano andare. Anche se uno sta sempre tutto tranquillo, tutto a posto, sembra sempre che... Io volevo portare una testimonianza molto semplice di domenica scorsa. C'era una partita serale, era una partita molto importante, Napoli-Palermo, e io sono abbonato allo stadio. Gli abbonati dovrebbero avere un ingresso riservato, almeno così prevederebbe, non so, un disegno di legge. Questo ingresso per riservato agli abbonati era chiuso. Considerate che nei distinti ci sono, credo, 8 tornelli, e da questi 8 tornelli dovrebbero entrare 30.000 persone. L'ingresso degli abbonati era chiuso. Una persona anziana, era una persona con i capelli bianchi, insomma, chiedeva perché, e lui diceva: io vicino all'ispettore, perché all'interno c'era la polizia comunque, diceva per quale motivo io sono cardiopatico, insomma dava le sue ragioni. Questo ispettore non è che lo ha risposto con una maniera gentile o chissà che, ha oltrepassato veramente il limite dell'educazione, della decenza, ha detto delle parolacce brutte a sentire, dietro di me c'erano delle ragazze, io mi sono vergognato a sentire certe cose. Io quando vado allo stadio, vi dico la verità, e vedo la polizia, non mi sento tanto tranquillo. Sarà perché stanno con le mazze, con i manganelli, con i cazzi, ma non mi sento tranquillo. E volevo dire un'ultima cosa e poi finisco. Ciro, no, ne ha già dette abbastanza, la prego, sono 3 minuti e passa l'intervento, l'abbiamo lasciato sforare perché lei è particolarmente simpatico, oltre che averci dato un intervento interessante e documentato. Marco. Bisogna distinguere il piano, come dire, della preparazione della sensibilità delle forze dell'ordine quando vanno a presidiare lo stadio, dovrebbero anche rendersi conto di questi, delle varie situazioni e anche delle persone che hanno di fronte. Altro discorso ovviamente è la funzione di ordine pubblico che la polizia, le forze di polizia devono avere allo stadio. Tra l'altro proprio a Napoli la scorsa settimana si è verificato, come ho ricordato prima, un grave incidente che ha coinvolto 3 steward con appunto un problema di pochi tornelli per tanti spettatori, e la situazione diciamo fatiscente dello stadio San Paolo è stata denunciata da Laurentiis in più occasioni. Se si vuole uno stadio più sicuro si deve partire dalla infrastruttura chiaramente, e poi si deve diciamo garantire un'attenzione da parte sia degli steward che delle forze dell'ordine e evitare certi comportamenti evidentemente. Sì sì, certo, fermo restando che Ciro, di cui non abbiamo alcuna ragione di dubitare, ha ragione, e cioè anche da parte di chi è tenuto per lavoro in quel momento a far rispettare l'educazione, l'educazione è indispensabile, perché sennò c'è una contraddizione in termini. Dario ha chiamato da Torino, buongiorno. Buongiorno, volevo dire questo: perché non è possibile all'interno degli stati dare uno status di diciamo zona particolare in cui la giurisdizione dell'ordine è affidata alle società stesse che ne sono responsabili e organizzano un servizio d'ordine, tipo una grossa discoteca o roba del genere? E secondo, perché per esempio non ci si può riservare il diritto di far entrare o non entrare gente che è già stata sorpresa ed è stata segnalata a compiere gesti o atti che hanno danneggiato la società stessa? Ascolto la radio, grazie. Adesso le faccio rispondere seriamente da Marco Bellinazzo. Io per parte mia faccio solo questa notazione: quando in aree in cui sono presenti 30, 40, 70, 80 mila persone, io sostengo che lo Stato deve essere rappresentato, per Stato intendo il pubblico, no? Poi se c'è un'organizzazione privata che è in grado di far funzionare le cose anche meglio di quanto non accada da parte del pubblico, sono d'accordissimo. Ma la presenza dello Stato, secondo me, in situazioni del genere è indispensabile. Questa è una mia opinione che sarà sballatissima. Marco. Durante il disegno dell'iter parlamentare per l'approvazione del pacchetto sicurezza c'era stato anche chi aveva proposto di dare la pistola agli steward, o almeno al capo degli steward. Hai capito? E quindi si finisce poi evidentemente per complicare le cose invece di semplificarle. Per quanto riguarda la possibilità, come dire, delle società di evitare l'ingresso di persone non sgradite, come accade nei locali pubblici o nelle discoteche, questa dovrebbe già esserci, nel senso che chi ha il DASPO, chi si è macchiato di reati di violenza nel corso di manifestazioni sportive è di per sé impedito, diciamo, dovrebbe essere impedito dall'ingresso nello stadio. Che questo poi accada purtroppo è perché quelle operazioni di filtraggio spesso non funzionano, ed ecco perché magari gli steward è opportuno che siano accompagnati anche da funzionari di polizia in maniera più assidua e completa. Marco, io ti ringrazio per la tua partecipazione, ringrazio tutti gli ascoltatori che sono intervenuti, chiedo scusa a Fabio da Milano che già era collegato, ma purtroppo siamo arrivati, Ciro da Napoli ci ha portato via un minutino in più, però lo stesso Fabio converrà che valeva la pena, perché è stato un racconto interessante, tra l'altro di un episodio emblematico, perché non sono così rari poi né negli stadi né in altre manifestazioni di questo genere, giusto così. Grazie allora a tutti gli intervenuti, a Flavio Suardi e a Franco Piattanide in redazione, a Filippo Aureggi in regia. Buon pomeriggio.